Noi studenti di Pavia abbiamo pensato di realizzare questa iniziativa, questa settimana di incontri da tenersi la prima settimana del mese di ottobre, perché siamo sempre stati fermamente convinti della necessità di informare, di sensibilizzare, di mantenere viva l'attenzione della cittadinanza, soprattutto della cittadinanza interna all'università, quindi della popolazione studentesca, sui temi dell'antimafia e della legalità. Ecco, un secondo di garanzia, la fermo un attimo, perché a me più che la popolazione studentesca, che ovviamente spero che sia sensibile, lo do per scontato, ricordo quando ero studente universitario io, erano ben altri tempi e la politica ci scorreva lungo le vene, le chiedo, ma Pavia come risponde a suo giudizio, la città di Pavia? Io penso che la città di Pavia all'inizio sia stata forse un po' fredda rispetto alle nostre iniziative e molte volte ci viene rivolta ancora adesso la domanda del perché appunto nel nostro territorio, tradizionalmente considerato immune dalle infiltrazioni della criminalità organizzata, si organizzino queste iniziative. Però io credo che con il tempo la popolazione si stia affezionando.